Storie italiane. Il piatto d'oro. Molto tempo fa, in un posto chiamato Seri, lavoravano due venditori di pentole, padelle e ninnoli fatti a mano. Dal momento che entrambi avevano gli stessi oggetti da vendere, si chiedevano come potevano venderli nello stesso villaggio e guadagnare bene. Oh, Sandar, come possiamo vendere lo stesso oggetto alla stessa persona? Se comprano da te, perché mai dovrebbero comprare anche da me? Se posso interrompere, ho un'idea. Perché non vi dividete la città a metà? Tu venderai le tue cose in metà città e tu nell'altra metà. Una volta che ognuno di voi avrà finito con la sua metà, l'altro potrà andare a provare a vendere anche lì i suoi oggetti. È un'idea geniale! Grazie mille per averci aiutato! Così Mahesh e Sundar si separarono e iniziarono a chiamare gli abitanti del villaggio. Pentole e padelle, prendi il tuo ciondolo e brilla con esso! Non molto lontano, una bambina sentì il venditore urlare. Si precipitò dentro per chiamare sua nonna. Nonna! Qualcuno sta vendendo gioielli! Voglio un braccialetto! Compramene uno! Oh, bambina, vorrei poterlo fare, ma sai che non abbiamo soldi. Come lo compreremo? Oh! Non possiamo vendere quel brutto piatto per comprarlo? Quello là? È coperto di fuliggine nera. Chi lo scambierà per un braccialetto? Oh, proviamo, nonna! Per favore! Ah, va bene. Proviamoci. Presto, Mahesh si avvicinò alla casa della bambina. Sì, qui! Voglio un braccialetto! Mahesh vide i vestiti strappati della bambina e subito decise di ignorarla. Non farmi perdere tempo, ragazzina. Non puoi comprarlo. Ma prima mi dovresti dire il prezzo, vero? Oh, va bene. Sono 4 monete. Dammele e ti darò il tuo braccialetto. 4? Ci dispiace. Non abbiamo soldi da darti. Ma se vieni dentro, posso offrirti qualcosa da scambiare. Ok, ma in fretta. Devo andare a vendere queste cose a quelli che hanno i soldi per comprarle. La casa era in condizioni terribili. Le pareti stavano cadendo a pezzi. Il tetto era rattoppato per coprire i buchi e c'erano topi dappertutto. Cosa? Sono così poveri? Cosa possono offrirmi? I topi? Signore, ho solo questo piatto fuligginoso da offrirti. La mia nipotina vuole davvero un braccialetto. Può accettarlo? Oh, questa cosa brutta e nera. Completamente coperto di cenere nera. Lasciami strofinare. Spero che sia almeno di rame. Mentre Mahesh strofinava il piatto, la cenere si staccava e una piccola parte del piatto iniziò a brillare. Ah, che cosa? Era un piatto d'oro! Cos'è successo? Qualcosa non va? Puoi prenderlo? Mahesh era un uomo avido. Pensò fra se stesso. Questo è oro puro. Questo deve valere centinaia e migliaia di monete. Dovrei andare senza dire niente e tornare più tardi. Saranno convinte che questo piatto non vale niente e me lo daranno anche gratis! Oh! Mi stavo solo chiedendo come hai potuto offrire questo piatto inutile a me. Questo non vale niente, non ha alcun valore. Non lo voglio! Oh, per favore, non dire questo. Spezzerai il cuore di mia nipote. Non riesci a trovare un modo per darci un braccialetto? Un braccialetto? Non posso darti nemmeno mezzo braccialetto per questa cosa inutile. Hai sprecato abbastanza del mio tempo. Adesso me ne vado. È un maleducato. Non voglio niente. Quando Mahesh sparì nel mercato, Sundar andò nello stesso posto per tentare la sorte. Pentole, padelle, ciondoli! Pentole, padelle, ciondoli! Ciao ragazza, vuoi comprare qualcosa? Io non ho soldi per comprare qualcosa da te. Oh, devi pure avere qualcosa. Non essere triste. Facciamo una cosa. Dimmi cos'hai e proveremo a fare uno scambio. Va bene? Va bene. Voglio un braccialetto, ma non lo voglio gratis. Ho un vecchio piatto che posso darti. Vorresti vederlo? Ah, certamente! Come altro potremmo fare? Io non so se sarà d'aiuto, ma eccolo qui. Sundar sapeva che il piatto non valeva molto, ma era un uomo generoso e onesto. Non voleva rompere il cuore della bambina. Si era già deciso a scambiare il vecchio piatto con un braccialetto. Per far sembrare vero lo scambio, decise di esaminare prima il piatto. Ok. Fammi provare a strofinare la cera nera. Cosa? Questo è un piatto d'oro! Signorina, questo vale più di tutto ciò che io ho! Vale moltissimo! Non ho abbastanza per comprarlo! Oh, veramente? Sono una vecchia signora! Io non capisco i soldi. Sembri essere onesto e gentile. Perché non prendi questo piatto e regali un braccialetto a mia nipote? Un braccialetto? Puoi avere più di 1000 braccialetti. Aspetta un minuto. Posso darti ogni pentola, padella, gingillo e ogni ultima moneta che ho in cambio di questo piatto. Ma per favore, lasciami tenere 8 monete per fare attraversare il fiume, la mia bilancia e la sua borsa per mettervi il piatto dentro. La vecchia signora era molto felice. Adesso aveva molte pentole e padelle di terracotta e sua nipote aveva molti ciondoli lucenti. Salutarono allegramente Sundar. Anche Sundar era molto felice di aver trovato il piatto d'oro. Sapeva che la sua vita stava per cambiare per sempre. Non molto lontano, anche Mahesh stava pensando allo stesso, ma non sapeva che i suoi sogni erano ormai lontani. Oro, oro! Diventerò ricco! Sono sicuro che la vecchia signora abbia ormai perso ogni speranza. Lei mi darà prontamente il piatto d'oro gratis. Questo sì che è un affare! Sapevo che mi stavate aspettando fuori. Va bene, ho cambiato idea. Non riesco a vedere una bambina triste come te. Comprerò il tuo oro, intendo quel piatto brutto e nero. Ma non posso darti il tuo braccialetto. Fammi pensare. Pensare a cosa? Non abbiamo bisogno di nulla da te. Abbiamo già venduto il nostro piatto d'oro a un venditore saggio e onesto. Cosa? Dove? Come? Chi? Sei un maleducato. E sei anche arrivato troppo tardi. Lui ci ha dato tutto ciò che aveva, tranne 8 monete e la sua bilancia. Deve aver già attraversato il fiume ormai. Cosa? No! I miei soldi! Ma la bambina aveva ragione. Mahesh era davvero arrivato tardi. Sundar aveva già attraversato il fiume. Mahesh esplose di rabbia e iniziò a saltare su e giù, agitando le mani in aria. Era pieno di odio per Sundar. Continuò ad urlare, ma Sundar era molto più avanti. Non riuscì a sentire una sola parola. Torna indietro! Questo è il mio denaro! Oh, quello è Mahesh! Sta saltando di eccitazione! Mi sta salutando! Forse sa cos'è successo! Guarda com'è felice per me! Ehi, grazie! Sono felice anch'io! Ciao, ciao! I miei soldi! Sundar se n'era andato e Mahesh era lì, a terra, a rimpiangere il suo comportamento. Se non fosse stato così avido, il piatto d'oro sarebbe stato suo. Ricordate, l'onestà è la miglior tattica.